vicino di Roma, di quella da un'ora e mezzo, e iniziamo a fare questa antenna. Il mostro ce l'ho già, non c'è problema. Appena lui è libero ci vediamo un sabato, una domenica, prendi un caffè e impostiamo subito tutto. La misura comunque ce l'ho già perché me lo farà la lucetta. Thank you.